Al di là della battaglia parlamentare contro il DDL Fini, quando questo arriverà in Senato e poi alla Camera, quali sono i progetti di natura culturale per contrastare questo atteggiamento di repressione e di intolleranza? Ecco, volevo dirvi, anche nella realtà un po' bolognese in cui opero sia come giornalista che come cittadino, si vede molto chiaramente che il tema degli stupefacenti è un tema abbastanza importante nella vita non solo dei consumatori ma anche dei non consumatori. Parliamo di quello che molto spesso anche in campagna elettorale è stato definito il fenomeno del degrado urbano, le zone universitarie. Per cui su questa legge il fantasma della droga leggono soluzioni di ogni genere che probabilmente non ci sono, e però insomma si sta cercando anche nella cittadinanza in qualche modo di venire a capo di alcuni bandoli della matassa, come appunto la questione delle produzioni di sostanze stupefacenti leggere come la cannabis e la loro legalizzazione. Stiamo parlando di un progetto che vede coinvolte ormai alcune città dell'Emilia Romagna, Bologna come Amsterdam, Ferrara come Utrecht, di un tentativo in qualche modo di cambiare la legislazione attualmente vigente, che comunque ricordiamo porta al 39% dei casi di carcerazione nel nostro paese. Una sola legge, la 309 del 90, che in sostanza, anche se è una legge in parte liberale su certi aspetti, dall'altra non tiene comunque aperte la carcerizzazione e la repressione. Ora con il decreto Fini si vorrebbe arrivare alla legge Fini, si vorrebbe arrivare a incarcerizzazione in teoria teoricamente di massa di milioni di persone, poi pensiamo che non sia letteralmente possibile. Però ecco, un cambio di rotta va fatto anche da partire dal centro-sinistra rispetto a quella che è una legge già che comunque fa aumentare, cioè Fini vuole implementare diciamo il caos, il disordine e aumentare in qualche modo invece di diminuire i rischi, come propongono insomma molti paesi europei, l'induzione dei danni e dei rischi. Ora è in progetto un viaggio europeo, bisogna un po' vedere come andrà dal punto di vista organizzativo, ma ci sono già parecchie adesioni di deputati, amministratori locali, comunali, regionali, parlamentari europei e operatori di zona del danno che vogliono andare in Olanda e incontrarsi con i loro colleghi olandesi. Questo è un viaggio che farà sicuramente notizia, perché presuppone, se tutto funziona in qualche modo, un'interazione diretta con la capitale della sperimentazione in campo degli stupefacenti. Abbiamo visto che nelle città olandesi la questione in realtà problemi sociali ne hanno tanti anche loro, sono certamente un po' più abili a in qualche modo analizzarli, diagnosticarli ed affrontarli in termini laici, come si sta giustamente parlando adesso a Bologna con la nomina di Massimo Pavarini, super consulente al tema della sicurezza, da Sergio Conferati. Si parla di possibili modelli olandesi e interazioni con i tentativi che stiamo facendo a Bologna appunto di aprire dei coffee shop veri e propri. Questa è un po' la nostra risposta a Fini, che pensiamo che abbia veramente le gambe corte, le stesse per cui poi in qualche modo è finito nella mano della storia. Enrico, per tornare al fronte parlamentare, sei a conoscenza dell'esistenza di altre due proposte di legge, una dei DS e della Margherita? Io so che c'è, allora, fra le tante cose, una proposta per la legalizzazione d'uso terapeutico, un'altra richiesta che da tempo per che il fatto che l'Italia recepisca la normativa europea sulla canapa industriale. So che c'è un cartello intorno all'onorevole Torleone, la Margherita, per la depenalizzazione ulteriore, e poi addirittura una proposta dei socialisti per la legalizzazione della cannabis a uso ludico. Ecco, quello è quanto, perché ce ne sono tantissime, rischiano comunque probabilmente neanche di passare in discussione, e direi che insomma da questo punto di vista perlomeno un po' il centro-sinistra si è riunificato in tema di depenalizzazione, anche se poi è tutto da vedere se le cose cambieranno per un prossimo governo. Ecco, noi pensiamo che tendenzialmente ci siano ancora delle macchie insomma in questo centro-sinistra. Nel novembre 2000, quando nacque il movimento di massa antiproibizionista a Genova, l'impressione fu, nonostante le dichiarazioni veronesi sulla legalizzazione, che il centro-sinistra consegnasse letteralmente a un gruppo di fanatici dell'antidroga appunto le chiavi del paese, e cosa che è avvenuta. Per cui da questo punto di vista il centro-sinistra ha deplementato, ha impoverito il potenziale umano degli operatori delle tossicodipendenze, di quello che si poteva fare. Non voleva già allora parlare di riduzione del danno, ora sì c'è una piccola démarche, però si tratta di fare molto di più, usare molto di più. Io penso che il tema in realtà è poco affrontato dai media perché è un po' scomodo, ma in realtà Io penso che invece il popolo italiano sia un po' il polo laico, come allora, come nel 93, io penso che siamo in grado in qualche modo, se abbiamo i media un po' più aperti, un po' meno antidemocratici, di fare una grossa battaglia di libertà, ma anche sicuramente di affrontare senza fretta di mortadella i temi legati alla globalizzazione e alle droghe.